Buonasera. Buonasera, scusate il ritardo, è tutta colpa mia, purtroppo Carl Bartelboom questa sera ha toppato un pochettino perché non so perché, ma la mia testa era sintonizzata, anzi era sincronizzata intorno alle 20:30 e invece giustamente il mio compagno di viaggio Carlo Mix mi faceva notare che abbiamo sempre iniziato alle 20. E va bene, e poi ci sono stati anche un po' di problemi tecnici per quanto mi riguarda, ma comunque insomma siamo qui, per fortuna il nostro palinsesto non è così rigido e vuol dire che prolungheremo il nostro programma, questa scheggia impazzita. Questa sera ci intratterremo un pochettino su quelle che sono state le sonorità degli anni 70 nel mondo. E io quando ho proposto questa cosa a Carlo la scorsa settimana, lui un po' ha storto il naso dicendo: ma come, un cultore, un musicofilo come te, la disco, ma come mai? Beh, la disco music ha rappresentato un forte fenomeno musicale, soprattutto negli anni 70, e dobbiamo dire che in quegli anni le fazioni erano praticamente divise in due, in maniera netta, quindi c'erano i cultori della cosiddetta buona musica, o musica chiamiamola non commerciale, quella che non vendeva molto. In Italia erano soprattutto cantautori, musicisti che non avevano un grossissimo riscontro a livello commerciale, e poi c'erano quelli che invece facevano ballare tutti, soprattutto in America. Qualcosa è successo anche in Inghilterra, ma sempre un po' a traino degli americani. Così, mentre da un lato gli inglesi erano sotto il profilo rock di certo un po' i maestri in quel periodo, ma due su tutti appunto Beatles e Rolling Stones, gli americani rispondevano con questo fenomeno fortemente commerciale, ma allo stesso tempo che risentiva per una serie di ragioni, ma non ultima quella appunto di influenze musicali che vivevano in quel paese. Sto parlando di rhythm and blues e anche e soprattutto di funky, rispondevano con questo fenomeno che ha poi invaso l'intero mondo. Allora mi è sembrato giusto sondare questo mondo, ma anche perché stiamo parlando di un mondo che poi è stato in qualche modo propedeutico per una serie di fenomeni altrettanto importanti, come quello non ultimo della radio, come quello appunto della nascita della figura del DJ intesa come la intendiamo oggi, e di un fenomeno di massa importantissimo. Pensate che tutto è iniziato a New York, in un piccolo appartamento in cui un DJ che non si chiamava ancora DJ, Massaro, invitava i suoi amici o un ristretto gruppo di amici ad ascoltare musiche e a ballare. È iniziato tutto da lì, poi la cosa si è propagata in tutto il mondo con la nascita anche di una serie di locali famosissimi, di cui parleremo dopo. E comunque qualcosa, uno spartiacque vero e proprio nel fenomeno, nella nascita del fenomeno, è rappresentato da questo brano, da questi brani, da questo film che adesso vi facciamo ascoltare. A New York, da questo DJ che dicevo ha di origine italiana, cioè David Mancuso, che apre appunto questo The Loft. Questo locale sui generis, che in qualche modo è una sorta di club privato, un club dance privato, per soli soci, e questo accade nel febbraio del 1970. Che succede? Che questa cosa naturalmente prende piede come un fenomeno non di massa ma di nicchia, in qualche modo anche abbastanza ricercato, e soprattutto prende piede anche tra i più importanti attori, insomma modelle eccetera. Si faceva gara per essere invitati nel loft del DJ di origine italiana, appunto Mancuso, tant'è che se ne accorge anche la rivista Rolling Stones in quel periodo, una delle forse la più importante rivista musicale, tant'è che nel 73 c'è la prima recensione di Rolling Stones a firma di Vince Aletti, che in qualche modo raccontava di questa nuova sfida, se vogliamo, in atto a New York, nel loft appunto del DJ. E poi nel 74 c'è la prima diretta di una radio newyorkese, che manda in anteprima il primo programma dedicato alla disco. Dicevo, in questo periodo nasce la figura del DJ, e cioè colui che decide in qualche modo la scaletta, che decide anche che tipo di musica proporre al suo pubblico, e poi lo fa in una maniera del tutto originale, perché attraverso questa musica abbastanza ritmate, se volete, quindi possibilmente con cui si possono contare le battute, questo insomma chi ha messo i dischi negli anni 70-80 lo sa benissimo, attraverso questo metodo poi si possono fare una serie di mixage, ecco da qui il nome di Carlo Mix appunto, che poi danno vita ad una colonna sonora senza soluzione di continuità che ti fa ballare anche per ore, ed era questo un po', era questa soprattutto la novità per cui i giovani in quel momento impazzivano. Estar ascoltando Radio Serrano Web. Beh, la voce che state ascoltando è sicuramente della regina della disco, sto parlando di Donna Summer, naturalmente qui in versione rimissata, no? E questo anche per farvi capire un pochettino qual è stata poi l'evoluzione della disco. L'evoluzione della diciamo che la disco muore definitivamente negli anni nel 1980 e poi spiegheremo come. Ma poi tutto è stato in qualche modo ricicciato, rimesso lì, rimesso anche su altri dischi, rimixato, riproposto e continua a far guadagnare un sacco di persone. E quindi dicevo, Donna Summer è stata sicuramente la regina di quel. I Feel Love è stato un successo straordinario e se la contendevano radio e televisioni di tutto il mondo, questa grossissima artista. Vi parlavo prima del loft di David Mancuso. Sono riuscito a rintracciare qualcosa che proviene appunto da quella discoteca, chiamiamola discoteca, insomma, da quell'appartamento, da quel loft, e adesso ve lo propongo e vi faccio ascoltare appunto quali sono stati gli albori di questo fenomeno musicale. Is it all? I newyorkesi impazzirono per questo sound che, come potete ascoltare, è sicuramente un sound contaminato già da lì, già dall'inizio. Questo è un brano che noi abbiamo estrapolato, come dicono i forbiti della situazione, Loose Joints It's All Over My Face, e questo è un original male version, appunto, che proviene direttamente da quella che poi diventa la prima discoteca, il loft, appunto, di David Mancuso. E da qui poi arrivano arriva una serie di intuizioni, diciamo così, una serie anche di manipolazioni, chiamatelo come vi pare. Cioè, nel momento in cui ci si rende conto che questo sound funziona, nel momento in cui ci si rende conto che questo tipo di musica può sfondare, e questo naturalmente poi fa arricchire una marea di gente. Stiamo parlando di cifre incredibili, stiamo parlando nel 78, forse il 78 è stato l'anno in cui si sono venduti più dischi da sempre, e naturalmente chi la faceva da padrona era la disco music, con personaggi che naturalmente apparivano, scomparivano. Ora, voglio dire, Donna Summer, Barry White, tutta una serie di persone che adesso ancora ci ricordiamo, hanno fatto questo tipo di... cioè si sono in qualche modo... sono diventati un po' il simbolo. Però intorno a questa marea di gente importante c'erano anche altri autori, altri interpreti che magari sono arrivati lì, hanno fatto il loro successo, ma stiamo parlando anche di gente che ha venduto milioni di dischi e poi in qualche modo è caduta nel dimenticatoio. Un piccolo motivo di orgoglio sta nel fatto che uno dei produttori più importanti di Donna Summer era un italiano che adesso è ancora in giro per le discoteche, che vi facciamo ascoltare subito, Giorgio Moroder. I'm E quindi ecco, io ho scelto questo brano per darvi un po' una, per rimettervi un po' in testa quelli che sono stati i successi di Giorgio Moroder, che poi l'americano prima di me l'ha pronunciato in maniera un po' più con lo slang tutto americano, appunto. Però comunque stiamo parlando di un personaggio importante nel panorama e nella scena, sulla scena musicale disco di quel periodo, e come potete ascoltare con i remix che abbiamo scovato, non demorde, sta lì e fa migliaia di presenze. Poi è anche difficile averlo con un suo DJ set, quindi insomma è uno che se la cava ancora molto ma molto bene. E naturalmente questa è un po', sarebbe da dire un po' come è andata a finire poi la disco e cosa rappresenta ancora. E, però sicuramente bisogna dire che anche agli albori, ecco, ritorniamo un po' con un bellissimo passo indietro. Agli albori, insomma, tutto era abbastanza... era abbastanza così, come dire, preso un po', presi da questa ondata, molti si adeguarono. I fenomeni, come dicevo, nascevano, morivano anche velocemente, poi però c'erano quelli che duravano. Tra questi c'era la risposta europea, un po' insieme a un altro paio che poi magari cercherò di farvi ascoltare se avremo tempo. Questa era la risposta europea, che è durata fino a un po' di anni fa e che comunque anche in questo caso ha rappresentato un fenomeno commerciale soprattutto stratosferico, e insomma li riconoscerete subito. E allora, ecco, Waterloo erano gli ABBA svedesi, che hanno in pratica monopolizzato la scena della disco pop, in questo caso, delle connotazioni ben precise, con questa miscela di voci e di accordi gradevolissimi che, appunto, dicevamo, andavano per la maggiore. Mi ricordava Carlo che naturalmente i nostri programmi, il nostro materiale, tutto ciò che produce Radio Serrano Web può essere riascoltato sul nostro archivio digitale, perché noi abbiamo un archivio digitale, quindi potete sicuramente accedere all'archivio e poi riascoltarvi con calma i nostri programmi, o anche i nostri servizi che facciamo in esterna. Quindi, Carlo, come si fa ad arrivare in questo? No, dillo tu. Buonasera a tutti. Abbiamo organizzato un archivio digitale su archive.org, internetarchive.org, che è praticamente il più grande archivio di cultura no profit su internet. Tutti possono accedere ai nostri podcast digitando semplicemente Radio Serrano Web, e quindi si aprirà la nostra libreria. Ci sono tanti servizi e poi ci sono tutti i programmi di Carlo. Che sarei io, che non mi chiamo Carlo, mi chiamo Carl Bartelboom, ecco. E se poi ci confondono e quindi no, vedete, volevo sottolineare questa cosa. Questa radio in qualche modo rappresenta un punto di partenza, ma allo stesso tempo una continuazione di un lavoro. Abbiamo spiegato all'inizio delle mie trasmissioni di un lavoro iniziato anni fa, e quindi di passione, e poi ci si accorge che comunque dai ricordi alla storia ci vuole poco, nel senso che il discorso dell'archivio digitale, del podcast, magari attualmente non suscita grosso interesse, ma potete star certi che fra qualche anno, fra 10 anni, 15 anni, staremo parlando di archivi, così come ci sono gli archivi storici in giro per il nostro bel paese. Sicuramente questo diventerà un archivio del territorio, e se poi, insomma, Gesù ci darà la salute, darà la salute anche la continuazione della radio. E quindi credo che sia una delle cose più importanti che uno strumento come la web radio può fare per il territorio e per il centro, i centri in cui opera. Quindi credo, insomma, che ancora una volta noi stiamo dalla parte un po' del progresso, in qualche modo. E vi ricordo che state ascoltando Schegge Impazzite, che è un mio programma che mi aiuta Carlo Mix per quanto riguarda la regia, e che questa sera stiamo parlando di disco music senza storcere il naso e cercando di avere anche una visione socioculturale al meglio, ok? Thank you. Allora, come potete sentire sotto c'è il basso di Nile Rodgers. Nile Rodgers è stato l'artefice del successo di questo gruppo che tutti voi conoscete. Stiamo parlando degli Chic. Good Times è uno dei tanti successi. Si stava parlando un pochettino, no? Stavamo vedendo che i brani disco, come in questo caso, durano, ad esempio questo dura intorno agli 8 minuti, e quello che sentite sotto è il battito, i beat sono che davano la possibilità al DJ di mixare un altro pezzo, e per questo il brano in genere era di 8 anche 12 minuti. Nelle discoteche questo, dagli addetti ai lavori, dai noi DJ, veniva chiamato appunto l'H, no? Cioè una sorta di grosso disco, un LP che poi era a long extension, che permetteva quindi di poter ballare, di poter usufruire del pezzo per lungo tempo, e poi in questi frangenti qui, ad esempio quello che state ascoltando sotto, senza la voce, dava la possibilità al DJ di giocare, scherzare, mixare altri pezzi. Ma Nile Rodgers è sicuramente è certamente ricordato come viene ricordato come un grossissimo produttore, e anche quello che ha inventato un modo di suonare il basso in maniera un po' particolare, che è appunto battendo il pollice sulle corde, che poi è stato ripreso anche dal bassista dei Level 42 e da un'altra serie di, tant'è che è diventata una scuola quella appunto di suonare il basso in questo modo. Prima invece il basso veniva pizzicato suonato in un altro modo. Questa rappresenta molto di più, quasi una batteria elettronica, e come potete sentire dava un sound particolare ai brani. Gli Chic hanno rappresentato un punto fermo nella disco music internazionale, e appunto Nile Rodgers lo è stato anche per altri anni, perché è stato il produttore anche di grossi gruppi e di successi poi internazionali. Stai ascoltando Radio Serrano Web. Dancing the night. come non poter riascoltare questa splendido sound degli Earth, Wind and Fire con September. E, vedete, la disco comunque era, era ballo, era felicità, gioia di vivere, in qualche modo, ecco, gioia di vivere, mi viene in mente questo, perché di certo si contrapponeva a una sorta di rock più impegnato, a un qualcosa che presupponeva anche un impegno politico, se volete. Ecco, questo è un po' è stata la linea di demarcazione, l'impegno e il disimpegno. C'era chi, e questo naturalmente poi creava una sorta di dicotomia, di spaccatura tra quelle che erano le generazioni o all'interno delle stesse generazioni. Io ho voluto anche fargli ascoltare questo brano a cui sono particolarmente legato, perché ero legato a un grossissimo amico mio che adesso probabilmente starà ballando gli Earth, Wind and Fire da lassù, e a cui io mando un grosso abbraccio, sperando, Tonino, di farti ballare con questa musica con cui tu ti divertivi tanto. In todo il mondo puedes escuchar Radio Serrano Web, la radio della costa adriatica, Abruzzi, Italia. Oddio, non era molto ortodosso parlare sul disco che continua a suonare, che continua naturalmente con il gruppo che continua a cantare, però insomma noi ormai queste cose le abbiamo superate, e siccome si tratta di un chiamiamolo programma, questo sketch impazzite di questa sera, didattico, cultural didattico. Allora, insomma, ci permettiamo anche queste piccole cose che prima nelle vecchie radio non venivano assolutamente tollerate, e anzi facevano la differenza tra il bravo e il cattivo DJ, come si suol dire. I Village People, che abbiamo finito di ascoltare proprio in questo momento, rappresentano un altro tassello di una certa importanza, cioè del fatto che comunque si è trattato anche di un fenomeno di costume, come quello la disco music è stato anche un fenomeno di costume. Sicuramente stiamo parlando di questo, perché comunque, come molti di voi sanno ormai, i Village People è un gruppo che era formato da personaggi che frequentavano l'ambiente gay newyorkese. Quindi stiamo parlando anche dei primi tentativi, anche dei primi non tanto timidi tentativi, no, di dar vita, di dar voce a quello che poi è diventato l'orgoglio gay. Quindi la musica anche in questo caso come traghettatrice in qualche modo di esigenze sociali, culturali, sentitissime, che magari attraverso anche qualcosa che solo apparentemente può sembrare leggero o un po' effimero, comunque lascia passare un messaggio importantissimo, e di cui adesso discutiamo ancora, ma in termini completamente diversi. What would be my En todo el mundo, puedes escuchar Radio Serrano Web, la radio de la costa adriática. Abruzzi, Italia. Il nostro corrispondente dalla Catalogna che ci ricorda che siete all'ascolto di Radio Serrano o Radio Serrano Web, che naturalmente potete ascoltare su una serie di piattaforme, tra le quali naturalmente Facebook, è un po' la più famosa, TuneIn, Radio Garden, Radio Net e Listen to My Radio. E quindi, insomma, se volete, se potete, se vi garba, come dicono in Toscana, vi sintonizzate, ci accendete e cosa più importante, come dicevamo prima, comunque potete anche riascoltare in podcast i nostri programmi, i nostri servizi e tutto ciò che noi produciamo quotidianamente con questa radio. Abbiamo ascoltato prima, poc'anzi appunto, un altro caposaldo, diciamo, della musica soul, che poi si è buttato anche sulla disco, e queste diciamo incursioni nella musica disco sono state fatte tante volte da grossi artisti, tra cui appunto Stevie Wonder. Io ricordo anni fa anche un'intervista che feci a Herbie Hancock a Pescara. Herbie Hancock aveva da poco fatto quel disco con Michael Jackson, e un disco appunto di dance, e io domandai appunto, lui fece invece poi un concerto di free jazz abbastanza complicato, ecco, mettiamola così, e domandai appunto il perché di queste strane incursioni appunto, e lui mi fece capire in maniera molto palese, molto chiara, che la disco, comunque la dance, o questa musica, chiamiamola commerciale, era comunque un modo come un altro per raggranellare soldi, per fare un po' di soldi. E poi naturalmente il jazz o il free jazz, che quella sera propinò a tutti i presenti, era invece ciò che lo appassionava di più. We'll be right back. Allora, si stava un po' disquisendo ancora qui nello studio perché è arrivato un altro DJ, lui un po' più addentro di noi, quello che sta alle nostre spalle. Si stava parlando appunto del fenomeno musicale che in qualche modo veniva ripudiato da quelli con la puzza sotto il naso musicalmente, ma che poi, come vi dicevo prima, nel bene e nel male ha segnato un'epoca, ha segnato anche le carriere di tantissime persone, ha segnato anche una grossa anche realizzazione a livello economico. Vi dicevo, no, di Herbie Hancock, ma vi dicevo anche di una serie di grossi artisti che provenivano dal soul, ma dal jazz anche, che poi dopo gli anni 80 anche col jazz ci sono state una serie di contaminazioni che hanno un po' cambiato le carte in tavola, quindi molti si sono dati a questo tipo di musica perché comunque permettevano di riempire le casse personali. Quello che abbiamo ascoltato adesso è stato un brano, quello dei Tavares, molto importante. È stato un altro di quei brani che ha dato il là al fenomeno, che ha un po' lanciato la disco. Come avete potuto ascoltare, magari ai più attenti di voi, le sonorità sono molto più soul nel caso dei Tavares, e poi la musica naturalmente nel corso degli anni, dal 73 fino ad arrivare al 78-79, naturalmente le sonorità sono modificate, ma sono state modificate anche dalle nuove attrezzature elettroniche, dalle nuove, tra virgolette, scoperte arrivate nel campo musicale, alle quali molti, insomma, si sono adattati e con i quali molti hanno anche cominciato a giocare e a realizzare brani di un certo effetto. Quelli che ascoltiamo adesso, l'aggancio tra Tavares e quello che ascolteremo adesso sta in uno dei componenti. Tra i componenti dei Tavares c'era uno sconosciuto cantante che poi è esploso invece con questi altri che vi facciamo ascoltare adesso. Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me, you said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away, so many words we didn't say, two people lost in a storm. Still. mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart you needed me. 'Cause I needed you so desperately. We were too blind to see. But then most of all, abbiamo fatto ascoltare Stell fino alla fine, questa splendida voce che un po' insomma è inconfondibile, il Lionel Rich che tutti conosciamo, che qui era naturalmente la voce e il leader dei Commodore, un cantante, un autore anche insomma, che è rimasto nella storia della musica, così come è rimasto nella storia della musica e della musica dance il brano che vi facciamo ascoltare adesso, subito dopo. Go. Hey, get you. Era il 1975 quando Lady Marmalade spopolava un po' in tutte le radio, in tutte le discoteche del mondo, e Patti LaBelle è sicuramente uno di quegli artisti che incarna quel periodo. Lo incarna anche perché questo Voulez-vous coucher avec moi, quindi questo modo anche così aggressivo, no, di rappresentare la sessualità, l'abbiamo visto con i Village People, ma Patti LaBelle è il suo pezzo, questo brano Lady Marmalade ha in qualche modo rappresentato una bomba all'interno di una società ancora abbastanza stantia, ancora abbastanza bigotta, ancora abbastanza, come dicevo nelle scorse puntate, anche ingessata, e questa è stata anche una di quelle caratteristiche della disco, no? Questa disinibizione, questo nuovo modo anche di affrontare i rapporti, di affrontare l'approccio anche che anche tra parentesi il ballo ti permetteva, la sensualità del ballo, la sensualità anche di un approccio nuovo e di un modo di ballare completamente nuovo, che non era quello dei vecchi canoni, degli standard vecchissimi, appunto. Ecco allora che si riesce a comprendere, spero che questo programma vi abbia fatto comprendere che cosa ha rappresentato questo fenomeno musicale. Certamente un fenomeno di costume sociologico da non sottovalutare, e io ho ritirato fuori anche un modo di fare musica. Ritorniamo alla figura del DJ, importante. Come il DJ lavorava, come il DJ in qualche modo rappresentava la novità di questo modo. E io ve lo faccio ascoltare con questo brano, che non è un po' un estratto da una serata, mettiamo tipo, di una discoteca di qualche anno fa. Funky Music, questo era un assaggio un po' di una serata tipo di un DJ set, appunto setting del, di quel periodo, insomma fine anni 70 diciamo, eh. Cosa c'è da ricordare? C'è naturalmente che la capitale mondiale di questo fenomeno è certamente era New York. New York soprattutto con i suoi locali rinomati. Stiamo parlando ad esempio del Paradise Garage o dello Studio 54. Il Paradise Garage era l'esatto opposto dello Studio 54. Anche qui c'era una divisione. Naturalmente tutto dipendeva dal tipo di musica che si suonava all'interno del locale. Infatti il Paradise suonava disco underground, mixata da Larry Levin, che ospitava anche VIP che ballavano naturalmente indisturbati in mezzo alla gente cosiddetta normale. Lo Studio 54 diciamo che era un po' più esclusivo, proponeva appunto disco music un po' più ecco, classica diciamo così, e di successo, e i DJ rinomati erano John Jellybean Benitez, Tony Carrasco, Tony Humphries, ed era un po' il club delle stars, ed era un club quasi inaccessibili, ecco. Michael Jackson, Calvin Klein, Brooke Shields erano tutti ospiti fissi dello Studio 54, e questo lo ha in qualche modo mitizzato. Io mi ricordo anche qui c'era, no, il mito dello Studio 54, e poi anche da lì iniziò nelle nostre discoteche o nei nostri locali la cosiddetta selezione all'ingresso. Nello Studio 54 avveniva appunto la selezione all'ingresso, che poi questa cosa si è anche si trasferì in Europa. I successi erano vertiginosi, nel senso che l'industria discografica di quel periodo macinava successi. Chic con Le Freak, Good Times che abbiamo ascoltato prima, Sister Sledge con We Are The Family, insomma come potete ben capire si era proprio nell'epoca d'oro. Quando tutto questo comincia a scemare, beh, ve lo diciamo subito dopo aver ascoltato questo brano. 1979, la disco, comunque i grandi successi della disco cominciano un po' a scricchiolare, comincia ad arrivare l'inizio della fine, come si suol dire in questi casi, e anche qui vi dicevo, il fenomeno disco è un fenomeno per molti anni sottovalutato, però è un fenomeno che ha riguardato anche nella sua fine, diciamo, anche una sorta di intrecci culturali anche sessisti, di omofobia, insomma c'è stato un po' di tutto. Pensate che nel 1979, appunto l'inizio della fine, sia una manifestazione stranissima che ha per titolo Kill the Disco, e appunto uccidi la disco, quando nel luglio del 1979 durante la disco Demolition nel parco di Comic City di Chicago, il DJ radiofonico di razza bianca, Steve Dahl, invitò gli ascoltatori a portare i loro dischi di disco music allo stadio. Poi alla fine il tutto si concluse con l'esplosione di un'enorme pila di dischi che bruciava, accompagnato dal canto appunto disco sax. Questa era una campagna di matrice, certamente di reazione, del macho bianco, come scrissero i giornali in quel periodo, contro la liberazione dei gay, come vi dicevo prima, e l'orgoglio nero, e quindi non tanto contro una reale avversione contro la disco music, ma più che altro le motivazioni erano socio-politiche. Possiamo dire che questo DJ, Steve Dahl, è certamente accreditato ormai da tempo come colui che in qualche modo ha fatto finire l'era della disco music. Ma non possiamo dire che la disco morì lì e finì lì. Diciamo che la disco poi, soprattutto negli anni '80, si è trasformata. Non si usava più la parola disco, era diventato quasi un tabù, e quindi molta gente aveva quasi paura a nominare questa parola, perché era sinonimo appunto di evasione. Si era tornati un po' a vecchi cliché. Anche le radio, ad esempio, cambiarono le loro programmazioni, non passavano quindi più continuamente brani disco, e c'è da dire anche un altro, c'è da sottolineare un altro fenomeno che ha contribuito, che contribuì in maniera netta alla chiusura, alla fine, o io oserei dire anche più che altro la trasformazione di questo tipo di musica, e cioè anche l'esplosione dell'AIDS. Questo riportò in qualche modo la gente di più nelle proprie case, evitò i contatti, non si andava più in discoteca, anche l'approccio in qualche modo era bloccato da questa paura, di questa bruttissima malattia. Quindi il tutto ritornò, come dicono i sociologi, nel proprio privato. Si ritornò a quel loft che nei primi anni 70 appunto aveva, da cui la disco era partita, quindi in quegli appartamenti, e non c'era più voglia di andare fuori. Questa è stata un'altra ragione, ma in qualche modo quei DJ che avevano lanciato brani bellissimi, che si erano dedicati anche a quel punto alla produzione, cambiarono un po' lo stile, cambiarono anche le sonorità, e dalla disco music sicuramente poi presero avvio altri stili, come ad esempio, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, ma a avviso di molti diciamo studiosi di questa materia, e la house music è certo una derivazione poi della disco, che ha fatto ballare una serie di tantissime persone. Allora io chiudo qui questa sera, vi lascio con un bellissimo brano che secondo me è uno dei più belli di quel periodo, e stiamo parlando di Gloria Gaynor. Il Schegge Impazzite di questa sera, che vi ricordo aveva come titolo la disco music, si conclude qui. Radio Cerrano, io, Carlo Bartelboom, insieme a Carlo Mix, vi diamo a questo punto quasi la buonanotte o il buon proseguimento di serata, vedete un po' voi, e vi invito naturalmente ad ascoltarci o magari a riascoltarci attraverso i nostri podcast che troverete facilmente sui nostri social. Buonanotte, buon ascolto e un arrivederci. Giovedì prossimo ci sarà un'altra sorpresa, un'altra scheggia molto impazzita.